Finora avete appreso che voi ed io e tutti gli altri sono Dio. Affermazione blasfema. Ma questo è il principio. È che noi esistiamo e siamo qui per rendere conosciuto lo sconosciuto, per evolvere, esplorare, per vivere avventure. E che lo facciamo per mezzo di coscienza ed energia, intento focalizzato, ambizione, desiderio, volere. Volere e conoscenza. E che è questo che crea la realtà. Il mio cuore lo rifiuta, la mia testa lo desidera. L'anima non pensa a ciò che il corpo considera. È un topo che scappa dal morso di una vipera. Il male che ci stimola, il male che ci assidera. È una gabbia dove nessuno mi ascolta. Il male bussa, gli passo le chiavi da sotto la porta. E poi ripetersi, tanto la vita è corta. E poi umiliarsi, l'hai fatto un'altra volta. Creo, invento, distruggo, rimonto. Fingo a cavallo, sparpaglio e poi riconto. Tutto per una ragione che mi ha tramortito. Per una motivazione che ancora non ho capito. È l'istinto, o è forse la ragione, che ammazza le persone ad ogni mezza decisione. È un demone che parla, oddio che mi sprona. Un diavolo che canta e un angelo che suona. Quando il male ci chiama noi rispondiamo, perché avvertiamo il suo richiamo. Quando il male ci chiama noi rispondiamo, è al momento del risveglio scappiamo. Lontano, lontano, lontano, lontano, lontano, lontano, lontano. Ho rubato le tue labbra in uno squallido portone. Sentivo tanto freddo nonostante il tuo calore. Sentivo la tua lingua che bagnava ogni mio errore. Messo fine alla tua stupida storia d'amore. Errore, errore, errore, mi ripeto 100 volte, 1000 volte. Ci ripenso e lo rinnego. Ci penso che è sbagliato, ci ripenso e non ci credo. Che quando ci ripenso non vorrei tornare indietro. La tensazione sgretola, ciò che la vita modera. E dire silenzio regola e costruirsi una fortezza, ma io sento la voglia di riabbatterla. Tegola per tegola è l'istinto, o è forse la ragione, che ammazza le persone ad ogni mezza decisione. È un demone che parla, oddio che mi sprona. O è solo la mia testa che non funziona. Quando il male ci chiama noi rispondiamo, perché avvertiamo il suo richiamo. Quando il male ci chiama noi rispondiamo, è al momento del risveglio scappiamo. Lontano, lontano, lontano, lontano, lontano, lontano, lontano. Ci riesco, posso pensare cosa è giusto e cosa no.